sole e nuvole, queste sono solo parole frivole, insensate, però dettate dal subconscio. Passi intrapresi per poi rimanere sull'uscio di una porta chiusa, scrutino al suo interno una luce soffusa. Scende nella notte, buia, profonda, mille immagini, così che il resto non conta. Rimane un concetto secondario, così da poter cambiare pure scenario. E a questo punto che cada il sipario, non voglio più vivere in un mondo ordinario. Il sole viene seguito dalla luna, il mezzogiorno e dopo un'ora è già luna. Con una precisione incredibile, come un segno incancellabile, lasciato dal tratto preciso di una penna, sottoposto al freddo come un'antenna. Ondeggio, trascinato, trasportato dal vento, mille immagini ma nessuno spavento. Tanto il tempo passa, intraprendo un nuovo passo, cresci ma nel profondo sei sempre lo stesso. Queste sono solo riflessioni fatte con la mano in bocca di una storia ormai andata storta. Yes. Una storia che porta ricordi, con fotogrammi piccoli ma enormi. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Una storia che porta consiglio, frasi indecifrabili scritte su di un foglio. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Pensa di stare in bilico sul ciglio di un burrone, prendere una decisione ma farlo con onore, senza venir contaminato da influenze strane, cercando di orientarsi in mezzo a queste linee. Non si sa se hanno un inizio o una fine, ma solcherò la vita consumando come le puntine di un giradischi a 33 a 45 giri. Prendi il tuo bersaglio e dopo un po' sei già là che miri, e dopo un secondo ti riscali mosse offensive in una battaglia lunga senza alcun finale, perché la fine bisogna costruirla. È un'azione dopo farla, è come essere chiusi in un grande solitario. Una parola sconosciuta ma letta sul dizionario, restando nascosto in preda dell'oscurità. Credi che sono scaduto, invece sono sempre qua a nuotare in un mare di rime. Mi prendi giro e aumenta il mio stile. Forse è meglio scappare, stare con altri che come me la vogliono pensare. No, bisogna mettersi alla prova, sottoposto ad una situazione nuova, così da riempire il sacco dell'esperienza. E se va tutto storto, pazienza. Una storia che porta ricordi, con fotogrammi piccoli ma enormi. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Una storia che porta consiglio, frasi indecifrabili scritte su di un foglio. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Ascoltare chi mi sta vicino, percorrere un cammino pieno di insidie e tradimenti. Immagini illustrate da occhi spenti, rappresenta falsità nei sentimenti, ma una voce è presente, quella che da lontano la chiami e lei ti risponde, ti consiglia la retta via. Vuoi fare di testa tua? E così sia. Una storia che porta ricordi, con fotogrammi piccoli ma enormi. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Una storia che porta consiglio, frasi indecifrabili scritte su di un foglio. Ci penso, lo sento, voglio fidarmi, d'ora in poi imparare ad ascoltarmi. Una storia, la mia storia, ma può essere di tutti questa storia. Qui da Sensis pronto a raccontarla, schiaccia replay. Yes.